L'allodola della signorina Andrew. Era un sabato pomeriggio. Nell'ingresso del numero 17 di Viale dei Ciliegi, Mr. Banks era occupato a dare dei colpetti al barometro mentre comunicava a sua moglie, Mrs. Banks, le sue previsioni del tempo. Vento moderato da sud, temperatura media, temporale, mare mosso, egli disse. In seguito variabile. Oi, cos'è questo? Si interruppe perché udì un rumore di colpi e di salti. In cima alla scala apparve Michael. Da come scendeva pesante ed inoccolato si capiva che era di cattivo umore. Dietro a lui, con un gemello per braccio, veniva Mary Poppins che lo spingeva col ginocchio nella schiena e lo spediva da un gradino all'altro a colpi bruschi. Jane li seguiva portando i cappelli. Chi ben comincia è alla metà dell'opera. Scendi giù, per piacere, diceva aspramente Mary Poppins. Mr. Banks smise di occuparsi del barometro e si voltò a guardare. Ebbene, che succede? Domandò. Io non voglio fare una passeggiata, voglio giocare con il mio meccano nuovo, rispose Michael, trangugiando saliva, mentre il ginocchio di Mary Poppins lo spingeva un gradino più giù. Sciocchezze, caro, disse Mrs. Banks. Certo che devi andare. Le passeggiate fanno diventare le gambe lunghe, lunghe, forti, forti. Ma io preferisco le gambe corte, brontolò Michael, rotolando di un altro gradino. Quando ero bambino, disse il papà, Mr. Banks, amavo fare passeggiate. Di solito andavo ogni giorno con la governante fino al secondo lampione e ritornavamo, e non brontolavo mai. Michael si fermò in silenzio su un gradino e guardò dubbioso il signor Banks. Anche tu sei stato bambino? Domandò molto sorpreso. Il signor Banks parve offeso. Certo che lo sono stato. Un bambino dolce con lunghi riccioli biondi, calzoni di velluto e alti stivaletti abbottonati. Faccio fatica a crederlo, disse Michael e si slanciò giù per le scale, fissando con stupore il padre. Proprio non gli riusciva di immaginare suo padre bambino. Gli sembrava impossibile che signor Banks non fosse sempre stato 1,65 m di altezza, di mezza età e piuttosto calvo. Come si chiamava la tua governante? Domandò Jane correndo dietro a Michael. Era carina? Si chiamava signorina Andrew ed era un sacrosanto spauracchio. Non dire cose del genere, comandò la signora Banks in tono di rimprovero. Voglio dire, si corresse il signor Banks, che era molto severa e aveva sempre ragione. Le piaceva mettere gli altri dalla parte del torto e mortificarli. Ecco com'era la signorina Andrew. Il signor Banks si asciugò la fronte al solo ricordo della sua governante. Ting, ting, ting! Il campanello della porta d'ingresso squillò e la sua eco risuonò nella casa. Il signor Banks andò alla porta e l'aprì. Sul gradino, con aria molto importante, stava il fattorino dei telegrammi. Un telegramma urgente per il signor Banks. C'è risposta? Porse una busta arancione. Se è una buona notizia, vi darò la mancia, disse al fattorino il signor Banks, mentre apriva il telegramma e ne leggeva il testo. Impallidì. Nessuna risposta, disse brevemente. E niente mancia? No, di sicuro, rispose il signor Banks con durezza. Il fattorino dei telegrammi gli lanciò contro uno sguardo di rimprovero e se ne andò deluso. Oh, cosa c'è? Domandò la signora Banks, intuendo che la notizia doveva essere pessima. C'è qualcuno ammalato? Peggio assai, rispose il signor Banks con aria sgomenta. Abbiamo perduto tutto il nostro denaro? Nel frattempo anche la signora Banks era diventata pallida e ansiosa. Peggio ancora, il barometro non diceva temporale? E per di più previsione di tempo variabile? Ascolta, spiegò il telegramma e lesse ad alta voce. Vengo a trascorrere un mese da voi. Arriverò questo pomeriggio ore 3. Pregovi accendere fuoco in stanza da letto. Eufemia Andrew. Andrew? Ma com'è lo stesso nome della tua governante? Osservò Jane. È la mia governante, disse il signor Banks, camminando su e giù e passandosi nervosamente le mani su quei pochi capelli che gli erano rimasti. Il suo nome di battesimo è Eufemia. E arriva oggi alle 3. Gemette ad alta voce. Ma questa non è una cattiva notizia, disse la signora Banks, sentendosi assai sollevata. Bisognerà preparare la stanza degli ospiti, naturalmente, ma non mi preoccupa. Mi farà piacere avere qui la cara, fedele creatura. Cara, fedele creatura? Gridò il signor Banks. Tu non sai quello che stai dicendo. Cara, fedele, corpo di Bacco, aspetta finché l'avrai vista. Aspetta! Afferrò il cappello e l'impermeabile. Ma mio caro, gridò la signora Banks, tu dovrai essere qui quando arriverà, altrimenti sembrerà una scortesia. Dove stai andando? In nessun posto e dappertutto. Dille che sono morto, replicò duramente e uscì di casa a precipizio con un'aria molto nervosa e depressa. Oh santo cielo, Michael, come sarà mai? Domandò Jane. La curiosità uccise il gatto, sentenziò Mary Poppins. Mettetevi il cappello, per piacere. Sistemò i gemelli nella carrozzina e li sospinse lungo il sentiero del giardino. Jane e Michael la seguirono, fuori, nel viale. Dove andiamo oggi, Mary Poppins? Attraverso il parco e lungo la linea dell'autobus 39, su per la via alta, oltre il ponte e infine a casa, per l'arco della ferrovia, rispose brusca. Se facciamo questo giro, cammineremo l'intera notte, mormorò Michael, lasciandosi sorpassare da Jane. Ma allora non ci saremo quando arriverà la signorina Andrew. Guarda che si ferma un mese, gli rammentò Jane. Io voglio vederla arrivare, piagnucolò Michael, trascinando i piedi sul marciapiede. Avanti, camminate per piacere, disse Mary Poppins vivacemente. Mi sembra di portare a spasso due lumache. Ma appena l'ebbero raggiunta, li fece attendere almeno 5 minuti davanti a una friggitoria di pesce per rimirarsi nella vetrina. Indossava una nuova camicetta bianca a pois rosa e il suo volto, mentre si guardava riflessa dietro i piatti di merluzzo fritto, aveva un'aria compiaciuta e soddisfatta. Spinse un pochino indietro la giacca perché si potesse vedere meglio la camicetta e pensò che, tutto sommato, non era mai stata così in forma. Persino i pesci fritti, mordendosi le code, sembrava che la guardassero presi d'ammirazione. Mary Poppins fece alla sua immagine riflessa nello specchio un sorriso di soddisfazione e proseguì. Avevano risalito via alta e ora attraversavano il ponte. Giunsero rapidamente all'arco della ferrovia e Jane e Michael oltrepassarono la carrozzina e corsero per tutta la strada, finché svoltarono l'angolo del viale dei ciliegi. Ecco un'automobile! Gridò Michael elettrizzato. Deve essere la signorina Andrew. All'angolo si fermarono per aspettare Mary Poppins e spiare l'arrivo della signorina Andrew. Un taxi, avanzando lentamente giù per il viale, si arrestò al cancello del numero 17. Sbuffò rumorosamente all'arrestarsi del motore e non c'era da sorprendersi perché da cima a fondo era carica di pesanti bagagli. La stessa vettura scompariva, tanti erano i bauli. Sul tetto, dietro, dai due lati, valigie e cesti straripavano dai finestrini, cappelliere erano attaccate con una cinghia ai predellini e due grandi sacche poggiavano sul sedile del conducente. Dal groviglio dei bagagli emerse il conducente che, dopo aver scavalcato ceste e bauli, riuscì finalmente ad aprire lo sportello. Una valigia per le scarpe precipitò, seguita da un grosso pacco avvolto in carta marrone, e poi un ombrello e un bastone da passeggio legati insieme con uno spago. In ultimo, una piccola bilancia ruzzolò dal tetto, gettando a terra il povero autista. Attenzione! Attenzione! Una voce tonante uscì dall'interno della vettura. Questo è un bagaglio di valore. E io sono un conducente di valore, ribatté l'uomo della vettura, tirandosi su e fregandosi lo stinco. Sembra che lo abbiate dimenticato, mi pare. Fate largo, per favore, devo uscire, riprese la voce potente. In quel momento apparve sul predellino della vettura il più grosso piede che i bambini avessero mai visto. Poi seguì il resto della signorina Andrew. Era avvolta in un largo mantello guarnito di un collo di pelliccia. Un cappello di feltro da uomo le stava appollaiato sul capo e dal cappello pendeva un lungo velo grigio. I bambini avanzarono a passi cauti lungo la staccionata, osservando con interesse l'imponente figura con naso a becco, bocca corrucciata e piccoli occhi che scrutavano astiosamente dietro gli occhiali. La sua voce, quando aveva discusso con l'uomo della vettura, li aveva quasi assordati. Quando Quattro scellini e 3 penny? Ella stava dicendo. Assurdo, potrei fare mezzo giro del mondo con quella cifra. Non pagherò e vi denuncerò alla polizia. L'uomo della vettura alzò le spalle. È la tariffa, disse calmo. Se sapete leggere, potete leggerlo sul tassametro. Non si può pretendere di farsi scarrozzare in un taxi per amore, tantomeno con questo bagaglio. La signorina Andrew sbuffò. Infilata la mano in una grossa tasca, ne trasse una piccolissima borsa e mise una moneta in mano all'uomo della vettura. Questi la guardò e la rigirò sul palmo della mano come se fosse stata una curiosità, poi rise sguaiatamente. «Questo è per il conducente?» commentò con sarcasmo. «No, di certo, è la vostra tariffa, non approvo le mance», disse la signorina Andrew. «È proprio degno di voi», esclamò l'uomo della vettura fissandola. E mormorò a se stesso tanto di quel bagaglio da riempire mezzo parco e non approva le mance, l'arpia. Ma la signorina Andrew non lo udì. I bambini erano arrivati al cancello ed ella si volse a incontrarli mentre il suo passo rimbombava sul marciapiede e il velo le svolazzava dietro. «Allora?» disse Burbera abbozzando appena un sorriso. «Suppongo che non sappiate chi sono io». «Oh sì, lo sappiamo», disse Michael col tono più amichevole, perché era molto contento di conoscere la signorina Andrew. «Tu sei il sacrosanto spauracchio!» Una vampa di fuoco investì il naso della signorina Andrew e dilagò sul volto. «Sei un ragazzino molto sgarbato e impertinente. Lo riferirò a tuo padre!» Michael sembrò sorpreso. «Non volevo essere sgarbato», cominciò. «È stato papà che l'ha detto?» «Silenzio! Non azzardarti a discutere con me!» disse la signorina Andrew. Si volse a Jane. «E tu sei Jane, suppongo. Non mi è mai piaciuto questo nome». «Come stai?» domandò Jane educatamente, ma in cuor suo pensava che neppure a lei piaceva il nome Eufemia. «Quell'abito è troppo corto», sentenziò la signorina Andrew, «e dovresti portare le calze. Ai miei tempi le bambine non avevano mai le gambe nude. Ne parlerò a tua madre». «Non mi piacciono le calze», disse Jane, «le porto solo d'inverno». «Non essere sfacciata. I bambini debbono guardare e non parlare», replicò la signorina Andrew. Si chinò sulla carrozzina e con la sua grossa mano pizzicò le guance dei gemelli in segno di saluto. Giovannino e Barbara cominciarono a piangere. «Che maniere!» esclamò la signorina Andrew. «Zolfo e melassa, ecco di che cosa hanno bisogno». Ella proseguì volgendosi a Mary Poppins. «I bambini maleducati piangono in questo modo. Zolfo e melassa in gran quantità, non lo dimenticate». «Grazie, signora», rispose Mary Poppins con gentilezza glaciale. «Ma io allevo i bambini con i miei sistemi, non accetto consigli da nessuno». La signorina Andrew la fissò. Sembrava che non potesse credere alle sue orecchie. Mary Poppins le ricambiò lo sguardo, calma e per nulla spaventata. «Ragazza!» disse la signorina Andrew ergendosi in tutta la sua altezza. «Non sapete quello che dite. Come osate rispondermi in questo modo? Farò in modo di farvi mandare via da questa casa. Prendete nota delle mie parole». Spalancò violentemente il cancello e si incamminò a grandi passi per il sentiero, agitando furiosamente l'oggetto rotondo nascosto sotto una stoffa a quadretti, mentre continuava a ripetere «Shh, shh». La signora Banks venne correndo a incontrarla. «Benvenuta, signorina Andrew, benvenuta!» disse garbatamente. «Com'è gentile da parte vostra venirci a fare una visita. Un piacere davvero inatteso. Spero che abbiate fatto buon viaggio». «Pessimo, invece. Non mi diverte mai viaggiare», rispose la signorina Andrew. E lanciò per il giardino uno sguardo corrucciato e scrutatore. «Terribilmente mal tenuto», notò con disgusto. «Ascoltate il mio consiglio, sradicate quelle cose», puntò il dito sui girasoli, «e piantate i sempreverdi, molto meno traffico, risparmio di tempo e moneta e fa miglior figura. Meglio ancora niente giardino del tutto, solo un semplice cortile in cemento». «Ma», protestò con garbo la signora Banks, «io preferisco i fiori». «Oh, roba ridicola, sciocchezze, siete una sciocca e i vostri bambini sono molto maleducati, specialmente il maschio». «Oh, Michael, sono sorpresa, sei stato sgarbato con la signorina Andrew? Devi subito chiederle scusa». La signora Banks appariva molto nervosa e turbata. No, mamma, non è vero. Solo io, cominciò a spiegare, ma la voce grossa della signorina Andrew lo interruppe. È stato della massima impertinenza. Ella insistette. Deve andare in un collegio, senza indugio, e la bambina ha bisogno di una governante. Sceglierò io stessa. E quanto alla ragazza che si occupa di loro, fece segno con la testa in direzione di Mary Poppins, dovete licenziarla all'istante, è impertinente, incapace e del tutto indegna di fiducia. La signora Banks fu completamente esterrefatta. Oh, vi sbagliate certamente, signorina Andrew. Noi riteniamo che ella sia un tesoro. Non capite niente, io non mi sbaglio mai. Licenziatela. Mrs. Banks le corse dietro con aria affranta e sconvolta. Spero che starete bene con noi, signorina Andrew, disse gentilmente, ma cominciava a sentirsi piuttosto dubbiosa. Come casa non mi pare un granché, rispose la signorina Andrew, ed è in uno stato deplorevole, piena di scrostature, quasi in rovina. Bisogna chiamare un falegname. E queste scale, quando sono state imbiancate, sono molto sporche. La signora Banks si morse le labbra. La signorina Andrew stava riducendo con le sue parole la loro casa, tanto comoda e graziosa, a qualcosa di meschino, e ciò rendeva la signora Banks molto infelice. Le farò imbiancare domani, disse umilmente. Perché non oggi? Domandò la signorina Andrew. Chi ha tempo non aspetti tempo. E perché avete dipinto la porta di bianco? Marrone scuro, ecco, è il colore adatto per una porta. Più economico e regge lo sporco. Guardate appunto quelle macchie. E posate o in terra il misterioso oggetto rotondo, cominciò a mettere in evidenza le macchie sulla porta d'ingresso. Là, là e là. Dappertutto, davvero indecente. Provvederò subito, disse la signora Banks intimidita. Volete salire nella vostra stanza? La signorina Andrew la seguì nell'ingresso a passi pesanti. Spero che abbiate acceso il fuoco. Oh, sì, un fuoco magnifico, da questa parte, signorina Andrew. Robertson Hay porterà su il bagaglio. Bene, ditegli di fare attenzione. I bauli sono pieni di bottiglie di medicine. Devo badare alla mia salute, io. La signorina Andrew si diresse verso le scale, girò lo sguardo per la stanza e. Questi muri hanno bisogno di essere ritappezzati. Ne parlerò a George. E perché, si può sapere, non era qui ad accogliermi? Molto sgarbato da parte sua. Le sue maniere, vedo, non hanno fatto progressi. La voce divenne più debole. Mentre la signorina Andrew seguiva la signora Banks su per le scale, da lontano i bimbi udirono la voce garbata della loro mamma a sentire con dolcezza a tutti i desideri della signorina Andrew. Michael si volse a Jane. «E chi è George?» domandò. «È papà». «Ma si chiama signor Banks?» «E sì, ma il suo nome di battesimo è George». Michael sospirò. Un mese è un tempo terribilmente lungo, Jane, vero? Sì, 4 settimane e un pezzetto, rispose Jane con la sensazione che un mese in compagnia della signorina Andrew sarebbe sembrato più lungo di un anno. Michael le venne più accosto. Io dico, cominciò in un ansioso mormorio, veramente lei non può far licenziare Mary Poppins, che ne dici? No. Non credo, ma è davvero strana, non mi stupisce che papà se ne sia andato. Strana. La parola rimbombò dietro di loro con un'esplosione. Si volsero. Lo sguardo di Mary Poppins avrebbe potuto incenerire la signorina Andrew. Strana, ripeté con uno sbuffo. Questa non è la parola adatta per lei. Io non so allevare i bambini, vero? Sono un'impertinente, incapace e del tutto indegna di fiducia, vero? Lo vedremo. Jane e Michael erano avvezzi alle minacce di Mary Poppins, ma oggi la sua voce aveva un'intonazione che non avevano mai udito prima. La guardarono in silenzio, domandandosi cosa stesse per accadere. Si udì un debole suono, mezzo sospiro e mezzo fischio. Cos'è stato? Domandò subito Jane. Il suono si ripeté, un po' più forte questa volta. Mary Poppins drizzò le orecchie in ascolto. Di nuovo un debole pigolio sembrò giungere dalla soglia. Ah! Gridò Mary Poppins con aria di trionfo. Avrei dovuto saperlo. e con una mossa improvvisa balzò sull'oggetto rotondo che la signorina Andrew aveva lasciato giù e ne tolse la copertura. Sotto c'era una gabbietta di ottone molto ben tenuta e rilucente, e appollaiato a un'estremità del bastoncino, nascosto fra le sue ali, stava un uccellino color nocciola. Sbatté le palpebre quando la luce pomeridiana gli ferì il capino e girò intorno solennemente gli occhietti. Il suo sguardo cadde su Mary Poppins e, trasalendo nel riconoscerla, aprì il becco ed emise un malinconico pigolio. Jane e Michael non avevano mai udito un suono così sconsolato. Ha fatto così? Davvero? Che vergogna! Ma proprio così, davvero? Domandò Mary Poppins facendogli un cenno pieno di simpatia con la testa. Chirp! Rispose l'uccellino alzando le ali con aria scorata. Come? 2 anni? In questa gabbia? Che cattiveria da parte sua! Disse Mary Poppins all'uccellino mentre il suo volto arrossiva per l'ira. I bambini osservavano. L'uccellino parlava in una lingua che essi non conoscevano, eppure Mary Poppins era impegnata in una conversazione intelligente, come se capisse. Cosa sta dicendo? Cominciò Michael. Sht! Disse Jane, pizzicandogli il braccio per farlo star zitto. Fissarono l'uccellino in silenzio. In quel momento egli salterellò un poco sul bastoncino verso Mary Poppins e cantò una o due note in un tono sommesso e interrogativo. Mary Poppins assentì con la testa. Sì, certo, conosco quel campo. È stato lì che ti ha preso? L'uccellino fece segno di sì col capino, quindi cantò in fretta una frase trillante che suonò come una domanda. Mary Poppins rifletté un momento. Bene. Ella disse: Non è molto lontano, puoi andarci in un'ora. Di qui vola verso sud. L'uccellino sembrò soddisfatto, danzò un po' sul suo bastoncino e sbatté le ali con eccitazione. Quindi riprese a cantare un getto di note rotonde e chiare, mentre guardava Mary Poppins con sguardo implorante. Ella voltò la testa e gettò uno sguardo circospetto su per le scale. Debbo farlo? Che ne pensi tu, l'hai udita quando mi ha chiamata ragazza? A me! Arricciò il naso con disgusto. Le ali dell'uccellino si scossero all'attaccatura come se ridesse. Mary Poppins si chinò. Cosa vuoi fare, Mary Poppins? Gridò Michael, non riuscendo a contenersi più a lungo. Che specie di uccellino è questo? È una allodola, disse Mary Poppins brevemente, girando la maniglia dello sportellino. Voi vedete una allodola in gabbia per la prima e ultima volta. E mentre diceva così, la porta della gabbia si spalancò e l'allodola, sbattendo le ali, sgusciò fuori con un trillo acuto e si posò sulla spalla di Mary Poppins. Ella disse volgendo la testa. Va meglio, vero? Cip, cip, cip! Assentì l'uccellino chinando la testa. Bene, faresti meglio ad andartene, l'avvertì Mary Poppins. Sarà di ritorno fra un attimo. L'allodola sospirò in un getto di note precipitose, agitando le ali verso di lei e continuando a chinare la testa. Su, su, disse Mary Poppins burbera, non mi ringraziare. Sono stata contenta di fare così. Non potevo vedere un'allodola in gabbia. Per di più, hai sentito come mi ha chiamata. L'allodola scosse ancora la testa e agitò le ali. Sembrò ridere di gran cuore, quindi chinò il capo da una parte e stette in ascolto. Oh! Mi ero completamente dimenticata, disse una voce tonante. Ho lasciato fuori Caruso, su quei sudici gradini. Devo andare a prenderlo. Il passo pesante della signorina Andrew risuonò per le scale. Cosa? Diceva in risposta a una domanda della signora Banks. Oh, è la mia allodola, Caruso. La chiamo così perché Caruso era un cantante meraviglioso. Come? No, non canta affatto ora, non ha mai cantato da quando l'ho intrappolata nel campo e l'ho messa in gabbia, non capisco perché. La voce si avvicinava, diventando man mano più rimbombante. No, no, non canta, replicò alla signora Banks. Vado a prenderla io stessa, non la fiderei a nessuno di quegli sfacciati bambini. La ringhiera ha bisogno di essere pulita e subito. Boom, boom, boom, boom. I passi della signorina Andrew risuonarono nell'ingresso. Eccola che arriva! Sibilò Mary Poppins. Via, fuori! E diede un colpetto sul dorso dell'uccellino. Presto! Gridò Michael ansiosamente. Oh, in fretta! Disse Jane. I gemelli agitarono le mani. Con un rapido movimento, l'allodola chinò la testa e col becco tirò fuori una penna dalle ali. Cip, cip, cip! Cantò e puntò la penna nel nastro del cappello di Mary Poppins. Quindi allargò le ali e si slanciò nell'aria. In quello stesso istante, la signorina Andrew apparve sulla porta d'ingresso. Come? Gridò quando vide Jane, Michael e i gemelli. Non siete ancora andati a letto? Ah, oh, così non può andare. I bambini ben educati, guardò biecamente Mary Poppins, dovrebbero andare a letto alle 5, lo dirò a vostro padre. Girò intorno lo sguardo. Ora lasciatemi vedere dove ho lasciato la mia. Scoppiò a dire d'un tratto. La gabbia scoperta, con lo sportello aperto, stava ai suoi piedi. La fissò come se non riuscisse a credere ai propri occhi. Perché? Dov'è? Quando? Che cosa? Chi? Balbettò. Quindi ritrovò tutta la sua voce. Chi ha aperto lo sportello? Tuonò. I bimbi tremarono al suono di quelle parole. Chi ha aperto la gabbia? Non ci fu risposta. Dov'è la mia allodola? Il silenzio persistette, mentre lo sguardo della signorina Andrew girava da un bambino all'altro e finalmente si posò, carico d'accusa, su Mary Poppins. Voi siete stata! Gridò puntando il suo grosso dito. Posso indovinarlo dall'espressione della vostra faccia. Come avete osato? Provvederò perché ve ne andiate stasera stessa, con armi e bagagli. Impudente, impertinente, indegna! Cip, cip, cip! Dal cielo venne un leggero trillo di risa. La signorina Andrew guardò in su. La lodola si stava leggermente dondolando sulle ali, proprio sopra i girasoli. Ah, Caruso, ecco dove sei! Gridò la signorina Andrew. Su, andiamo, non mi far aspettare. Torna nella tua graziosa gabbietta, Caruso, e lascia che io chiuda lo sportello. Ma la lodola restò sospesa in aria e diede in uno scoppio di risa, gettando indietro il capino e sbattendo le ali sui fianchi. La signorina Andrew si chinò e raccolse la gabbia, alzandola sopra la sua testa. Caruso, che ho detto? Torna subito! Ordinò, agitando la gabbia verso l'uccellino. Ma la lodola la oltrepassò e sfiorò il cappello di Mary Poppins. Cip, cip, cip! Ripeté, passandole accanto rapidamente. Benissimo, disse Mary Poppins assentendo. Caruso, mi hai sentita? Ripeté la signorina Andrew, ma questa volta c'era una nota di costernazione nel suo vocione. Mise giù la gabbia e cercò di acchiappare la lodola con le mani, ma quella sfuggì, svolazzò al di sopra di lei e con un colpo d'ali si slanciò più in alto nell'azzurro. Seguì un getto di note dirette a Mary Poppins. Pronto, ella rispose. E allora successe una cosa strana. Mary Poppins fissò i suoi occhi sulla signorina Andrew e questa, improvvisamente, sotto il fascino di quello strano sguardo profondo, cominciò a tremare sulle gambe e mise un piccolo sospiro. Puff! Vacillò in avanti e con terribile violenza urtò contro la gabbia. Era la signorina Andrew che diventava più piccola, o la gabbia che si ingrandiva. Jane e Michael non potevano dirlo con sicurezza. Certo è che lo sportello della gabbia, con un piccolo clic, si richiuse con all'interno la signorina Andrew. Oh, oh, oh! Ella gridò mentre la lodola scendeva giù e afferrava la gabbia per il manico. Cosa mi succede? Dove sto andando? Urlò la signorina Andrew quando la gabbia si alzò in aria. Non ho spazio per muovermi, non riesco neanche a respirare! Gridò. Neanche la lodola ci riusciva, rispose Mary Poppins tranquillamente. La signorina Andrew continuava a gridare tra le sbarre della gabbia. Aprite la porta, fatemi uscire, dico fatemi uscire! Non è facile, rispose Mary Poppins in tono sommesso e beffardo. La lodola continuava ad allontanarsi, salendo sempre più in alto e cantando sempre. E la pesante gabbia in cui era prigioniera la signorina Andrew le pendeva dalla zampa in un pericoloso dondolio. Al di sopra del chiaro canto della lodola udivano la signorina Andrew che picchiava sulle sbarre e gridava: Io, che ero ben educata, che avevo sempre ragione, io che non ho mai sbagliato, A me doveva succedere una cosa simile. Mary Poppins fece una strana risatina sommessa. L'allodola sembrava ora piccolissima, ma continuava a fare dei giri nell'aria cantando forte in tono di trionfo, e la signorina Andrew e la gabbia continuavano a volteggiarle pesantemente dietro, sballottati da una parte e dall'altra, come un battello nella tempesta. Fatemi uscire! Dico, fatemi uscire! La sua voce giungeva fino a loro. All'improvviso, l'allodola cambiò direzione. Il canto cessò per un momento, intanto che si dirigeva il suo volo da un'altra parte. Quindi ricominciò impetuoso e limpido, e l'allodola, scuotendosi dal piede l'anello della gabbia, volò verso sud. Se n'è andata, disse Mary Poppins. Dove? Gridarono Jane e Michael. A casa, nel suo prato? Ella rispose guardando in alto. Ma ha lasciato cadere la gabbia? Osservò Michael spalancando gli occhi. Sfido. La gabbia stava precipitando velocemente a sbalzi e capitomboli. Adesso potevano distinguere benissimo la signorina Andrew, ora con la testa, ora con i piedi in aria, man mano che la gabbia piroettava nello spazio. Precipitava sempre più giù, pesante come una pietra, e atterrò con un plaff sul primo gradino. Con una incontenibile violenza, la signorina Andrew spalancò lo sportello. Uscita che fu, sembrò a Jane e Michael che fosse più grande che mai terrificante. Per un momento rimase lì ansante, incapace di parlare, con il volto più congestionato di prima. Come avete osato? Proruppe in un mormorio gutturale, puntando un dito tremante su Mary Poppins. E Jane e Michael videro che i suoi occhi non erano più arrabbiati e sdegnosi, ma pieni di terrore. Voi, voi, balbettò la signorina Andrew sconvolta. Voi, ragazza crudele, irrispettosa, maleducata, cattiva, ostinata, come avete potuto osare? Mary Poppins la fissò attraverso le ciglia socchiuse con aria vendicativa. Avevate detto che io non so allevare i bambini, disse lentamente e sottolineando le parole. La signorina Andrew indietreggiò, tremando di spavento. Vi chiedo scusa, rispose, inghiottendo la saliva. Che io sono sfacciata, incapace e del tutto indegna di fiducia, continuò la voce di Mary Poppins con una calma implacabile. La signorina Andrew si fece più piccina sotto lo sguardo fermo. È stato uno sbaglio! Sono dolente! Ella balbettò. E mi avete chiamata ragazza! Continuò Mary Poppins senza pietà. Ritiro l'offesa! Ritiro! Boccheggiò la signorina Andrew. Tutto ritiro! Soltanto lasciatemi andare! Non chiedo altro! Si torse le mani e guardò Mary Poppins in atto di implorazione. Non posso stare qui! Mormorò. No, no, non qui, vi chiedo di lasciarmi andare. Mary Poppins la guardò a lungo, pensosamente. Quindi, con un piccolo cenno della mano, andate, disse. E la signorina Andrew diede un sospiro di sollievo. Oh, grazie, grazie! Tenendo sempre gli occhi fissi su Mary Poppins, scese i gradini all'indietro, si voltò e a passi vacillanti percorse il viottolo del giardino. L'uomo della vettura, che durante tutto questo tempo aveva continuato a scaricare il bagaglio, stava mettendo in moto la macchina e si preparava a partire. La signorina Andrew alzò una mano tremante. Aspettate! Gridò con voce rotta. Aspettatemi! Vi darò 10 scellini, tutti per voi, se mi conducete via subito. L'uomo la guardò con tanto d'occhi. Voglio dire proprio questo! Ella ripeté in tono pressante. Guardate! Frugò febbrilmente in tasca. Ecco, prendete e andiamocene via subito. La signorina Andrew entrò barcollando in macchina e si accasciò sul sedile. L'uomo della vettura, trasecolato, chiuse lo sportello dietro di lei e quindi ricominciò a caricare in fretta il bagaglio. Robertson Hay era caduto addormentato fra una pila di bauli, ma l'uomo della vettura non si arrestò per svegliarlo. Trascinò il bagaglio sul viottolo e terminò il lavoro da solo. Si direbbe che la zitella ha ricevuto un duro colpo. Non ho mai veduto nessuno così desolato, mai. mormorò a se stesso mentre metteva in moto la macchina. Ma di quale specie di colpo si trattasse l'uomo della vettura non lo sapeva, né se avesse vissuto 100 anni avrebbe mai potuto indovinarlo. «Dov'è la signorina Andrew?» domandò la signora Banks, affrettandosi verso la porta d'ingresso in cerca della visitatrice. «Partita», disse Michael. «Cosa vuoi dire partita?» La signora Banks sembrò molto sorpresa. «Sembrava che non avesse desiderio di restare», disse Jane. La signora Banks aggrottò le sopracciglia. «Cosa significa ciò, Mary Poppins?» domandò. «Non saprei dirle, signora, le assicuro», rispose Mary Poppins con calma, come se la cosa non la interessasse affatto. Abbassò lo sguardo sulla sua camicetta nuova e ne assestò una piega. La signora Banks guardò ora l'uno, ora l'altro e scosse la testa. «Che cosa straordinaria, non posso proprio spiegarmela». Proprio in quel momento il cancello del giardino si aprì e si richiuse con un lieve clic. Il signor Banks avanzò in punta di piedi per il viottolo, esitò e attese nervosamente mentre si volgevano tutti verso di lui. «Allora, è arrivata?» domandò con ansia in un bisbiglio. «È arrivata ed è ripartita», disse la signora Banks. Il signor Banks spalancò gli occhi. «Partita? Vuoi dire veramente partita? La signorina Andrew?» La signora Banks assentì. «Oh, gioia, gioia!» gridò il signor Banks e, afferrando con ambo le mani i lembi dell'impermeabile, cominciò a danzare la tarantella in mezzo al viottolo. Si fermò all'improvviso. «Ma come? Quando? E perché?» domandò. «Proprio adesso, con un taxi, perché i bambini erano stati sgarbati con lei, suppongo. Si è lamentata di loro con me. Non posso proprio pensare ad alcun altro motivo. E voi, Mary Poppins?» «No, signora, neppure io», disse Mary Poppins, spazzando via con gran cura un granello di polvere dalla sua camicetta. Il signor Banks si volse a Jane e Michael con uno sguardo dolente. «Siete stati sgarbati con la signorina Andrew, la mia governante, quella cara, fedele creatura? Mi vergogno di voi due, davvero mi vergogno!» Parlò severamente, ma c'era un bagliore di riso nei suoi occhi. «Io sono un uomo disgraziatissimo», proseguì, mettendosi le mani in tasca. «Ecco, mi affatico giorno per giorno a tirarvi su come si deve, e in che modo mi ripagate? Comportandovi sgarbatamente verso la signorina Andrew. È una vergogna, è il colmo. Non so se potrò mai perdonarvi, ma...» Continuò, togliendo dalla tasca 2 monete e porgendole solennemente a ciascuno di loro. «Farò del mio meglio per dimenticare». Si voltò, sorridendo. «Oi!» osservò inciampando contro la gabbia. «Da dove è venuta questa? Di chi è?» Jane, Michael e Mary Poppins tacevano. «Oh, beh, poco importa», disse il signor Banks. «È mia ora, l'adopererò come sostegno per i piselli odorosi». E si mosse, portandosi via la gabbia e fischiettando allegramente. «Bene», disse Mary Poppins mentre conduceva i bambini nella loro stanza. «Bella educazione, davvero, comportarvi così sgarbatamente verso l'ospite di vostro padre». «Ma noi non siamo stati sgarbati», protestò Michael. «Io ho detto soltanto che era un sacrosanto spauracchio e papà l'aveva chiamata così». «Mandarla via in quel modo quando era appena arrivata, non la chiamate maleducazione?» domandò Mary Poppins. «Ma non siamo stati noi», replicò Jane. «Sei stata tu?» «Io sono stata sgarbata con l'ospite di vostro padre?» Mary Poppins, con le mani sui fianchi, squadrò furiosamente Jane. «Tu osi dirmelo?» «No, no, non sei stata sgarbata, ma crederei proprio di no, davvero?» ribatté Mary Poppins, togliendosi il cappello e sciorinando il grembiule. «Io sono stata educata come si deve», aggiunse arricciando il naso mentre cominciava a svestire i gemelli. Michael sospirò. Sapeva che non serviva a nulla discutere con Mary Poppins. Lanciò un'occhiata a Jane ed ella stava girando e rigirando nella mano la sua moneta. «Michael», ella disse, «ho riflettuto». «Che cosa?» «Papà ci ha dato i soldi perché credeva che noi avessimo mandato via la signorina Andrew». «Lo so». «Ma non siamo stati noi, è stata Mary Poppins». Michael si agitò. Allora tu pensi, cominciò imbarazzato, sperando che ella non intendesse dire ciò che lui temeva. Sì, lo penso, assentì Jane. Ma io volevo spenderla. Anch'io, ma non sarebbe giusto, sono suoi, in realtà. Michael rifletté a lungo sulla faccenda, poi sospirò. Bene, disse e con rimpianto trasse dalla tasca la moneta. Andarono insieme da Mary Poppins. Jane le porse la moneta e ecco, disse trattenendo il respiro, pensiamo che debba prenderle tu. Mary Poppins prese le due monete e le girò e rigirò nel palmo della mano. Poi il suo sguardo si incontrò con il loro, penetrò profondamente le loro menti, leggendo nel pensiero. Continuò a lungo a fissarli. Disse alla fine, facendo scivolare le due monete nella tasca del grembiule. Fin da piccolo ho appreso le virtù del risparmio. Suppongo che ti saranno molto utili, disse Michael, lanciando una malinconica occhiata alla tasca. Sarà proprio così, replicò ella seccamente, mentre si avviava a preparare il bagno.